La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. È domenica, è mezzogiorno, avete un appuntamento con me, con la vostra salutare ossessione quotidiana, sono Nicoletta. Eccoci alla bufala in tavola, quindi accomodatevi e come un portateco che si rispetti non venite a mani vuote. Portate anche voi la bufala che più delle altre vi ha stuzzicato, acceso la vostra curiosità, quella che vi ha ammagliato e anche un po' sedotto, perché oggi ci trasformiamo tutti in acchiappabufale. Cercatori di bufale vicini e lontani, attivi e meno attivi, agguerriti, appisolati e arrugginiti, oggi vi presento l'ospite della domenica. La domenica è il giorno in cui si invitano a casa amici, parenti, colleghi, naturalmente solo quelli simpatici. I tempi sono un pochino più lenti e il chiacchiericcio è dolce. Oggi l'ospite d'onore della bufala in tavola è la dottoressa Evelina Flachi, specialista in scienze dell'alimentazione, presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare e socio della SICPREC, che è la società di prevenzione cardiovascolare, ma soprattutto un volto notissimo della TV. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuta alla bufala in tavola. Io la saluto, dottoressa Flachi, e le do il 5. È un modo di salutare molto giovane, ma che mi dà anche l'opportunità per ricordare il titolo del suo ultimo libro, La dieta del 5, o meglio, La pentadieta, possiamo dire così? Certo. Allora, diamoci il 5. Give me 5. All right. Un 5, un numero che è amico anche della nostra salute per tante ragioni, lei ce le spiegherà, e 5 sono i pasti della giornata, 5 sono i nutrienti per i tre pasti principali e anche 5 i colori della salute che arrivano dalla frutta e dalla verdura e 5 sono le tappe del suo percorso, di quello che lei descrive appunto nella dieta del 5. Da quale 5 iniziamo, dottoressa Flachi? Allora, dal 5, che già nella numerologia significa equilibrio. E questo ci piace. Ecco, perché lo scopo anche del mio libro è quello di insegnare l'equilibrio alimentare. Perché dieta non vuole dire restrizione, punizione, ma significa stile di vita. E per mantenere uno stile di vita sano, certo, dobbiamo avere equilibrio in tanti comportamenti. Quindi ovviamente camminare, mangiare bene, cercare di respirare bene, dormire bene. Quindi mantenere anche il benessere in 5 modi. Quindi il benessere fisico, il benessere sociale, il benessere spirituale, intellettuale, emozionale. Allora, in questo modo possiamo raggiungere non solo facilmente il nostro peso forma, ma aggiungere anche anni alla nostra vita e qualità. E qualità. Infatti, nel suo percorso alimentare, non mi piace chiamarlo dieta perché, certo, il suo libro insegna proprio questo stile alimentare che è mirato all'equilibrio, lei individua 5 fasi e attraverso queste fasi la nostra salute ci guadagna. Perché? Perché con questo tipo di alimentazione si può normalizzare la pressione, controllare il colesterolo, stimolare il metabolismo e anche ritrovare quell'energia fisica e mentale che serve per vivere a pieno le nostre giornate. Dottoressa Flachi, ma noi sappiamo che ci sono nel 5 le 5 porzioni di frutta e verdura, lo ripetiamo da tempo. Certo. Però di queste 5, attenzione, ci sono più verdure che frutta, quindi 3 di verdura e 2 di frutta? Sì, studi più recenti hanno indicato anche una certa libertà nell'uso della verdura e il controllo a 2-3 porzioni massimo di frutta, perché chiaramente abbiamo vitamine, acqua, fibre, ma anche zuccheri. Quindi l'ideale è, come indico anch'io quando consiglio dei centrifugati, fare anche un mix. tra verdura e frutta. E, sicuramente abbiamo a disposizione i colori che ci aiutano a identificare anche dei principi attivi salutari che frutta e verdura forniscono. Quindi abbinando i colori, quali sono i colori da abbinare? Quelli che vanno meglio? Insieme. Bisognerebbe fare il piatto colorato, sì. Ecco, perché ci sono i cinque colori del benessere, che sono il giallo arancio, che fornisce beta carotene, sappiamo importantissimo nella produzione endogena di vitamina A. La vitamina A è un antiossidante per eccellenza, stimola le difese, favorisce il miglioramento della vista, aiuta la nostra pelle a mantenersi il più a lungo protetta anche dalle intemperie, dal sole, dal freddo. Poi abbiamo il rosso. Il rosso, il nostro pomodoro, è un esempio. È stata accertata, oltre alla presenza di vitamina C, soprattutto nei prodotti crudi, anche il licopene. Questo carotenoide è presente nella buccia. Sono stati fatti molti studi nel consigliarlo nella prevenzione di tumori come quello al seno, all'utero e alla prostata. E la curiosità è che questo licopene, contrariamente a tante a altre vitamine e altri principi attivi, si concentra maggiormente con la cottura, quindi con il nostro sugo, la pomarola. Tra l'altro esatto. Parleremo proprio tra poco in questa puntata della Bufala in Tavola di conserve. È tempo di conserve di pomodoro, certo. Verdure sott'olio e sott'aceto. Attenzione, vi daremo tutte le indicazioni per portare in tavola salute, ma soprattutto sicurezza. La bufala in tavola. Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Sono Nicoletta, sono tornata e sono la vostra salutare ossessione quotidiana, anche la domenica, anche a mezzo sempre a mezzogiorno, e sono tornata perché oggi viaggiamo con la dottoressa Evelina Flacchi, che è qui in studio con me. Ma il bello del viaggio è che si possono aggiungere sempre persone. A questo proposito io vorrei lanciarvi un'ideuzza, chiamiamola un'iniziativa per voi che ci seguite da casa. Allora scrivetemi a labufalaintavola@radio24.it per farmi sapere chi invitereste a pranzo la domenica e perché, che cosa chiedereste al vostro ospite e quale piatto preparereste e perché. Magari chissà che possiamo esaudire i vostri desideri. Intanto io tra poco vi presenterò l'ospite che ho invitato, una persona che mi sta particolarmente a cuore, che conosce bene anche la dottoressa Flacchi. Faremo trovare al nostro ospite naturalmente un piatto molto colorato, perché oggi stiamo parlando anche dei colori della nostra salute, del nostro benessere. Guarda caso sono 5, un numero che ritorna nella dieta del 5, la pentadieta, che è anche il titolo del libro della dottoressa Flacchi. Dottoressa Flacchi, abbiamo parlato del giallo, abbiamo parlato del rosso, ma i colori naturalmente arriviamo, ce ne sono altri, viola, verde e anche bianco. Che cosa dobbiamo ricordare di questi colori? Ma il viola, i nostri la melanzana, ecco, sono ricchissime di antocianine, polifenoli, che favoriscono la protezione dei nostri vasi, quindi utili nella prevenzione dell'apparato, dei problemi dell'apparato cardiovascolare. Poi abbiamo il verde sembra un colore qualsiasi, in realtà manifesta ricchezza di vitamina C e clorofilla, che ha un'azione antiossidante anche lei, quindi ingerendo cibi verdi nei nostri ortaggi arricchiamo anche di protezione il nostro organismo dai radicali liberi. E poi c'è il bianco. Sì, il bianco va su tutto. Come il nero. Ecco, le nostre amate cipolle, aglio, forniscono dei polifenoli, degli antiossidanti, tra cui la quercetina, wow. Che se sembra essere importantissima nel mantenere la fluidità del sangue. È per questo che forse si dice che questi prodotti cipolla aglio fanno bene al cuore. Quindi cerchiamo di mettere nei nostri piatti tutti questi colori, nutritevi dei colori della vita. Ecco, questo è il messaggio che vi lanciamo oggi, ma che è anche il titolo di una campagna promossa da una proa e cofinanziata dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, che nasce tra l'altro, dottoressa Flacchi, nel 2012 e oggi viaggia al secondo triennio di attività. Dottoressa Flacchi, ancora una volta parliamo di 5, perché ci sono 5 tappe nel suo percorso proprio che assicura la salute e promuove anche il benessere, riducendo anche i chili di troppo là dove sono di troppo. Esatto, perché fare una dieta sana vuol dire anche mantenersi in salute, e per questo non fa male fare 5 settimane quando lo desideriamo, partendo da quella detossinante. Poi ho indicato quella metabolica che agisce sulla funzione digestiva e metabolica dei cibi. Poi la terza settimana l'ho chiamata love, ma in realtà non è identificazione di amore, ma lato ovo vegetariana, perché ci può essere anche la voglia di fare una settimana di questo tipo che comunque rende varia la nostra alimentazione. La settimana Total Body, che lavora un po' sull'azione globale della riduzione del controllo appunto dei grassi e degli zuccheri, e importantissima la settimana di mantenimento, perché dobbiamo pensare che con queste 5 settimane dovremmo raggiungere anche un equilibrio comportamentale e pensare soprattutto a mantenere delle regole nella quotidianità, non solo nel periodo in cui si decide di fare la cosiddetta dieta. Ecco, noi alla Bufala in Tavola vogliamo lanciare questo messaggio: portate in tavola solo la verità. Cercate di stare lontani da quei sentito dire, non ci sono alimenti miracolosi. No, né dimagranti né ingrassanti. Ognuno ha la propria realtà individuale, il proprio quadro biochimico, le proprie necessità, diciamo, antropometriche, e lo stato di salute. Assolutamente. È importante. Bisogna, come sempre, diversificare. Brava. Una parola che piace alla mia invitata della domenica. Vi dico perché l'ho invitata, perché è una delle mie amiche del cuore, con cui prima avevo un contatto quotidiano, e poi, dato che in qualche modo la vita lavorativa ci ha separato, mi tocca invitarla a pranzo anche la domenica per vederla. È con noi la donna di denari. Esatto, come potete capire, io con grande sacrificio vengo a pranzo a casa tua, perché date le tue qualità culinarie non mi sottraggo di certo al sacrificio. Allora, intanto mangiamo con la dottoressa Flacchi. Molto volentieri. È una straordinaria opportunità, perché noi cercheremo di svelare qualcosa della nostra Deborah Rosciani. Perché intanto vorrei che tu ti raccontassi con una... com'è la tua dieta? Come la definiresti? Onnivora? Sì, sì, assolutamente. Marchigiana? Anche, beh, quella, sai, con la cucina della mamma, ogni tanto anche quel sacrificio lì va fatto. Quindi non si può andare dalla mamma e dire: mamma, sono a dieta. Per cui ci sono anche quei weekend molto liberi nell'alimentazione. Quindi tu sei onnivora, ma... Sì. Ma con un ridimensionamento avvenuto negli ultimi anni, come tu sai, di molti alimenti di origine animale, ma in particolar modo dei latticini, di tutto ciò che è derivato del latte, quindi non tanto la carne quanto quell'ambito lì, perché notavo che mi dava un pochino di fastidio, e poi l'ho anche appurato, come tu sai, con un nutrizionista, questo mio problema. Quindi questo è quanto. Poi tutto ti sei ciò convertita che... alle bevande vegetali. Non si può, e mi non piacciono, si può più molto dire latte. No, ma amici, tra l'altro poi il tema è che mi piacciono molto di più, intanto perché non riesco a non zuccherarle molto più facilmente del latte. Sì. Con ti arriveranno adesso cartoni. Adesso ne ho di tutti i tipi, e ogni volta che ne trovo uno diverso, in qualche qualche negozio, io lo sperimento e mi piacciono molto. Quindi questo è uno dei grandi cambiamenti che ho fatto, ma molto volentieri, perché poi quando tu stai bene, il cambiamento, come tu sai, non lo vivi come sacrificio. Bella. E quindi... Dottoressa Flacchi, la promuoviamo? Ma no. La torchio ancora un po', eh? No, sicuramente, ognuno di noi ha la propria sensibilità, per di più l'intolleranza al lattosio, che oggi si può verificare scientificamente con degli esami specifici, indirizza il consumatore ad evitarlo. Quindi se non esiste questo motivo, non lo si utilizza, altrimenti ci infatti sono... Infatti io alterno e ogni tanto comunque una busta di latte normale. Esatto, perché quando esiste anche questa intolleranza conclamata, inserendolo diciamo saltuariamente, non si crea il fastidio che si avrebbe con l'uso quotidiano di un prodotto di cui non abbiamo più la possibilità, certo, di digerirlo. Ecco. Quindi diversificate, cambiate l'unica cosa che non dovete fare è cambiare la vostra radio preferita, che è Radio 24, e alla domenica, ma sempre da lunedì alla domenica a mezzogiorno, dovete stare con noi e prima ancora con Deborah alle 11 di denari, con i due, esatto, di denari. Senti, tu, Deborina, dimmi. Volevo dirti un'altra cosa, io le so già, insomma, ti faccio delle domande di cui conosco già le risposte, ma so che i nostri amici sono curiosi. Qual è quel piatto, quell'alimento che ti fa festa, che tu consumi con piacere quando sei particolarmente contenta e dici... Dai, me lo merito. Beh, come tutti gli italiani, la pasta mi piace, anche se va consumata, almeno nel mio caso, con parsimonia, perché sono soggetta sempre anche lì a qualche, come dire, conseguenza di natura un po' di digestione. Dottoressa Flacchi, la devo rottamare o me la tengo? No, nel senso che l'esagerazione da quel punto di vista, però con un buon sughetto, mi piacciono tutte le verdure. Le mangio veramente molto volentieri, e di ogni tipo, le zuppe, e le zuppe di cereali. Quindi lo so che posso sembrare tutto triste, ma in realtà a me piace mangiare in compagnia di Nicoletta, a me questo è quello che fa festa. quanto sei virtuosa, esatto. E tutto l'integrale mi piace moltissimo. Senti, anche tu sei inciampata in qualche bufala? In termini di alimentari, dici? Sì. Fammici pensare, adesso non mi magari viene in mente. Magari una credenza, non lo so. Ma sì, vabbè, c'è quella sciocchezza del glutine che se lo elimini dimagrisci al volo, quindi c'è stato quel momento della gran moda anche fra gli attori di Hollywood, certo, e quella veramente era stata dell'incredibile, aveva avuto dell'incredibile. E poi ovviamente la dieta, come dire, del vegetale dalla mattina alla sera, anche quella è ovvio che è inutile, il segreto è la combinazione equilibrata di tutti gli alimenti. Io sto bene quando mangio un poco di tutto. Brava. Quando vado per sottrazione esagerata, esatto. Poi faccio un po' di sport, mi piace camminare, mi piace muovermi. Adesso ho provato l'idrobike, Nicoletta, no, sei contenta? Fantastico, ma quante soddisfazioni ci dà questa ragazza. Bravo. Dottoressa Flacchi, un consiglio per la mia amica? Ma sicuramente che è già perfetta, è già ben equilibrata e ben diretta. Io adoro la colazione, dottoressa. Poi Nicoletta lo sa, noi ci alziamo quando facevamo le nostre trasferte insieme, non vedevamo l'ora la mattina di andare a colazione nei vari alberghi che ci ospitavano. Ecco, infatti sicuramente Deborah si sa ascoltare, ecco, questo è il consiglio che do anche ai nostri ascoltatori: sapersi ascoltare e capire magari quando c'è quel momento in cui si è più stressati, e ovviamente forme di colite, di cattiva digestione peggiorano. Allora in quel caso il controllo delle scelte alimentari è quasi obbligatorio, ma il problema molto spesso non è dato dall'alimento ma dalla nostra situazione fisiologica, quindi cerchiamo di non demonizzare il cibo ma di ascoltarsi e poi eventualmente di fare delle ricerche individuali specifiche per capire da dove arriva il problema, se diventa un po' cronico, se saltuario, pazienza. Allora, intanto noi ci diamo appuntamento domani con i due, esatto, denari. Facciamo colazione con le pancake. Dai, quelle che io cucino con la farina di ceci, di castagne, buone. Ci mischio di tutto. Sono squisite. Allora, grazie a Deborah. Grazie a voi, buon lavoro. A presto, buon pranzo. Ci vediamo per il nostro caffè. La bufala in tavola. Più la matematica che mi permette. E con i numeri riprendiamo questa seconda puntata della Bufale in Tavola. Diamo i numeri, ma vogliamo dare i numeri veri, perché noi siamo a caccia di bufale, vogliamo riportare la verità a tavola, quindi vogliamo mangiare le cose che ci piacciono, le cose buone, le cose del nostro territorio, perché la tradizione italiana è importante, ma vogliamo liberare la nostra mente, la nostra tavola, il nostro carrello della spesa di tutte quelle notizie false e tendenziose che sono diventate di moda ma che non hanno alcun fondamento e non solo pesano sul nostro portafoglio ma anche e soprattutto sulla nostra salute. E a proposito di numeri, perché vi dico i numeri? Perché ci sono dei numeri che facciamo fatica ad accettare, dottoressa Flacchi. Uno di questi è la misura del nostro giro vita. Soprattutto in questo periodo di ritorno dalle vacanze, il giro vita si ammorbidisce un po'. Certo, dobbiamo avere il centimetro per crearci poi l'obiettivo, no? Di noi donne abbiamo il pantalone, la gonna, e gli uomini la cintura o la giacca che non si allaccia più. Ma questo quindi, può essere tira, un segnale. Se ecco. Tira, non date la colpa al lavaggio che è stato troppo energico, alla tintoria sotto casa che fa qualche danno, ma pensate di scoprire la pancia. Ecco, prendete il metro, passatelo intorno al vostro girovita, appena sopra l'ombelico e alle ossa del bacino. Mi raccomando, non barate, tenete i muscoli ben rilassati ed espirate, e a questo punto voilà, prendete la misura. Dottoressa Flacchi, diamo i numeri? Diamo i numeri. Allora, dobbiamo non superare 84-88 centimetri per la donna e 102 per l'uomo, insomma un po' il minimo. Questo può essere un indice, assieme agli altri parametri, di grasso addominale, che purtroppo può essere anche un segnale a rischio di sindrome metabolica, quindi di tutte le problematiche correlate di cui poi credo parlerà. Infatti parleremo il nostro prossimo amico. Infatti purtroppo non è una bufala. Quando ne parlavamo sabato scorso a Obiettivo Salute con il dottor Confalonieri, se il nostro giro vita si allarga, la lunghezza della nostra vita si accorcia. Sembra uno slogan, in realtà è tutto vero. Niente bufala. Dottor Gualerzi, buongiorno. È arrivata la bufala in tavola. Un grande esperto, cardiologo, esperto di malattia metabolica, autore della dieta Super Salute, molto amico di Cuore Denari, Essere Benessere, degli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Allora, mettiamo i puntini su lei. È vero quanto che la nostra circonferenza addominale è un fattore molto importante che incide pesantemente sulla nostra salute. È una relazione molto stretta anche con la salute del nostro cuore. Assolutamente sì, c'è proprio una correlazione fra la pancia e quindi il cosiddetto grasso viscerale, questo organo quasi indipendente che si crea attraverso questo stile di vita un po' inconsapevole della vita moderna, e le malattie cardiovascolari. Quindi noi cardiologi siamo proprio nemici di questo organo, di questo che non è solamente, come abbiamo detto più volte, un problema estetico, ma un problema di facilità, di a volte già segno di malattia, ma che porta sicuramente inesorabilmente verso uno stato di vulnerabilità delle nostre arterie e del nostro cuore. Quindi facciamo attenzione a quello che mettiamo nel piatto. Non esiste, lo ripetiamo tante volte, una dieta universale. Ognuno di noi è diverso da qualsiasi altro, come ha ben sottolineato la dottoressa Flacchi. Ciascuna ha delle caratteristiche che lo rendono unico, speciale. Tanto che due persone diverse, e lo possiamo constatare anche in famiglia, possono rispondere ad un modo magari opposto ad uno stesso stimolo o a uno stesso cibo. E a renderci così speciali, così unici, concorrono i geni, l'ambiente in cui viviamo e le nostre abitudini. Risultato, può capitare che pur mangiando le stesse cose si ingrassi in modo diverso. Dottor Gualerzi, tutto questo per dire che lei insegna anche nel suo libro a utilizzare un parametro molto importante per arrivare poi a suggerire uno stile alimentare su misura, direi cucito addosso, e che è l'aspetto morfologico, che è un po' lo specchio delle nostre abitudini. Assolutamente, accumulare grasso nella pancia ha un significato diverso che il fatto che si accumuli ad esempio sui fianchi o nel sedere, nelle cosce, o ancora che si distribuisca in modo uniforme in tutto il nostro organismo. Questo non è solamente l'espressione di quante calorie abbiamo mangiato, ma di come le abbiamo mangiate, di quando le abbiamo mangiate e soprattutto di come viviamo la vita, ma anche di come dormiamo, di che tipo di sport facciamo, e quindi il nostro aspetto esteriore racconta molto di più della nostra salute rispetto a quanto ci siamo sempre immaginati. Anche del livello del nostro stress e anche di come riusciamo a gestirlo, dottor Gualerzi? Assolutamente, perché vedremo ad esempio alcuni morfotipi come quello appunto della cosiddetta pancia, lo stress e quindi gli ormoni che sottendono e che sono prodotti in condizioni di stress non controllate hanno proprio un ruolo predominante nel determinare quel particolare tipo di ingrassamento, cioè quello dell'addome piuttosto che in altre parti, quindi possiamo identificare come colui che ingrassa nell'addome, quindi nella pancia, una persona in cui che è particolarmente vulnerabile e prono, diciamo, ad avere gli effetti negativi dello stress sul suo corpo. Dottoressa Flacchi, io ho parlato di mele, pere e melanzane, mi sono allargato un po', ma dato che abbiamo parlato dei cinque colori del benessere, dell'importanza di portare a tavola frutta e verdura di diversi colori, voilà, anche il nostro morfotipo li abbiamo presi, no, a esempio dal mondo vegetale. Vogliamo descrivere queste tipologie che... Beh, sicuramente la tipologia a mela è quella che identifica una maggior distribuzione del grasso sul grasso addominale. Pancia, ecco. Esatto. Forti di pancia, gambette sottili. Ecco, in genere uomo o donna che ha queste caratteristiche definito a mela. A pera, quando tipicamente femminile, ecco, una distribuzione del grasso sui fianchi, sulle cosce, sui glutei la distribuzione chiaramente omogenea. Io ho detto a melanzana, ma per non dire a barattolo, ecco. Può avere una situazione che sicuramente parte anche dalla genetica e prosegue proprio con un costante disordine alimentare e la privazione anche dell'attività motoria, perché sappiamo che è indispensabile anche tenere in equilibrio le entrate e le uscite. Poi la qualità dei cibi, la stessa capacità di metabolizzarli incide sulla distribuzione del grasso. Anche gli ingredienti con cui cuciniamo i cibi, a volte un alimento di per sé potrebbe essere anche positivo, poi noi lo trasformiamo in negativo. Dottor Gualerzi, per mele, pere e melanzane, i consigli del dottor Gualerzi, perché ciascuno di questa tipo di queste persone fa un po' degli errori o deve stare particolarmente attento magari a degli aspetti, a degli alimenti. Ci dia qualche indicazione per fare centro? Sì, diciamo che il classico fenotipo a mela, cioè la persona che è a mela, che è classicamente più l'uomo, è caratterizzato per avere dei livelli molto alti di insulina e di cortisolo, che sono gli ormoni tipici di chi è stressato, ma anche di chi mangia in modo abbastanza vorace. Sono persone che rispondono abbastanza bene alle diete, quindi vanno spesso incontro a quel fenomeno yo-yo, cioè ci mettono a dieta e tendono a perdere peso, ma mai completamente, perché poi lo stile di vita un pochino veloce e punto dove regna lo stress li riporta ad adottare le abitudini solite. E una delle caratteristiche principali di questi soggetti è quella di riuscire a farli dormire bene, perché sono persone che spesso dormono male, in modo spezzettato, e che il sonno potrebbe essere il rimedio naturale per ridurre la pancia. Per fare questo, anche a livello dietetico, uno dei suggerimenti è quello di non negare loro l'utilizzo di carboidrati, che normalmente invece nelle ore serali viene un pochino più bandito, ma di poterli utilizzare, perché sempre cereali a basso indice glicemico ma serali faciliterebbero la produzione di serotonina, che aiuterebbe sia a ridurre il cortisolo ma anche a migliorare la qualità del sonno. E quindi questo è un po' quello che il consiglio veloce per chi assume un fenotipo di tipo a mela. Quindi mela, cercate di ridurre un pochino lo stress, attenzione alle diete, agli effetti yo-yo, perché la pancia scende ma se poi rimaniate la pancia di nuovo aumenta, e con gli interessi cercate di dormire bene. Il dottor Gualerzi dice: siete l'unico fenotipo a cui possiamo consigliare e caldeggiare anche i carboidrati la sera, che solitamente vengono invece suggeriti come pranzo. Andiamo alle pere, forte di coscia. Sì, l'altro pere, un grassetto che ci piace, dottor Gualerzi. Sì, che entro un certo limite ricorda la donna, e quindi con le forme che deve avere. Oltre un certo limite diventa proprio l'espressione di quelle donne che, ahimè, molto spesso troppo convinte che la dieta sia l'unico modo per migliorare la propria situazione fisica, si cimentano spesso a privazioni anche delle spesso inutili dietetiche. Questo non fa altro che essere l'espressione di un rallentato metabolismo basale, spesso sotteso da livelli più bassi di ormone tiroideo, che non necessariamente portano a una malattia tiroidea, ma hanno tendenzialmente un metabolismo più basso queste persone con un ormone tiroideo più basso. E uno dei suggerimenti principali invece in queste persone è riuscire a fare una colazione molto abbondante, non avere paura, ma mangiare più carboidrati, perché i carboidrati soprattutto alla mattina hanno l'azione fondamentale di stimolare l'ormone tiroideo e di migliorare il metabolismo. Caratteristiche infatti dell'ormone del fenotipo APERA è quella di avere sempre mani e piedi fredde, che sono un po' il sinonimo di questo metabolismo spento che si può riattivare con il coraggio di mangiare e poi logicamente seguire un'alimentazione corretta e equilibrata, ma una buona colazione. Quindi se siete pere, se siete forti un po' di coscia, che è anche un po' il suo bello, mi raccomando, puntate alla prima colazione e fatevi scaldare i piedi dal vostro compagno o dalla vostra compagna. La bufala in tavola. Pancia, misurati la pancia. Beh, misurarsi la pancia a pranzo, alla domenica, veramente questo è troppo. Vi sto chiedendo troppo, ma sapete che io vi voglio bene. Buona domenica a tutti, buon pranzo a tutti. Buon pranzo alle mele, buon pranzo alle pere e buon pranzo anche alle melanzane. Insieme al dottor Gualersi e alla dottoressa Evelina Flacchi cerchiamo di suggerire delle indicazioni per rendere il nostro stile alimentare gustoso e salutare, senza rinunce, ma molti consigli mirati. Dottor Gualersi, dopo le mele e le pere arriviamo alla melanzana, cioè alle persone che hanno una distribuzione, direi, del grasso, dei chili, un po' in modo uniforme, dove quelli che hanno, non possiamo definire con la vita sottile, ecco, diciamo così. Sì, diciamo che questi accomunano in sé un pochino tutti gli errori che abbiamo visto nel fenotipo mela e quella pera, quindi tendenzialmente una vita abbastanza stressata, consumo di cibi raffinati industriali, e che questi generano appunto alterazioni sia al metabolismo, quindi che tendenzialmente si abbassa, sia una ridotta attività appunto degli ormoni anabolici come il GH e via dicendo. Questi soggetti, attenzione, rispondono molto meglio all'attività fisica rispetto alle diete, quindi è logico che mangiare bene deve essere un intento, ridurre i cibi industriali un intento, però questo fenotipo risponde molto bene all'attività fisica, soprattutto attività fisica fatta in modo costante, aerobico, non troppo intenso e principalmente fatto alla mattina a digiuno dopo aver bevuto un po' d'acqua per generare e stimolare il metabolismo. Quindi questo è il suggerimento da dare, per una volta non lo diamo solamente per una dieta, ma lo diamo anche per il movimento, perché questo fenotipo si avvale molto bene di questa attività fisica. Dottor Gualersi, grazie. A proposito di movimento, faccia due passi, venga a trovarci a Milano per una nuova puntata della Bufala in Tavola e noi l'aspettiamo, le auguriamo una buonissima domenica. Grazie, buona domenica a voi, sarò da voi molto presto, grazie. Senti come mangio. Dottoressa Flacchi, inauguriamo questa rubrica ogni domenica, suggerimenti per prendere dagli alimenti che portiamo a tavola solo il meglio, per rendere biodisponibili quelle sostanze su cui la ricerca sta indagando. Sappiamo che ci sono alimenti che hanno delle sostanze antiossidanti, altre depurative, però noi cerchiamo di mangiarle, ma anche di farle trattenere, metto le virgolette, dal nostro corpo. Consigli quindi. E dottoressa Flacchi, oggi io partirei dal curry, è una spezia che è famosissima, soprattutto in questo periodo viene citata, ci sono degli studi straordinari per la presenza del curry, della curcumina, che vanta proprietà antiossidanti, quindi sì. È un po' la spezia della lunga vita. Ma che cosa dobbiamo fare per veramente utilizzare queste sostanze? Teniamo presente che oggi possiamo trovare già la curcuma indipendentemente dall'utilizzo del curry, quindi concentrare maggiormente i benefici di questa spezia, che si mantengono e si concentrano o con l'abbinamento corretto di pepe e olio, pepe nero, non pepe bianco, e olio, perché i carotenoidi della curcuma vengono maggiormente assimilati. Altro consiglio è di utilizzarla preferibilmente a crudo, quindi aggiungerla magari alle nostre pietanze, anche a qualche insalata che poi condiamo, nelle minestre magari anche tiepide. Ecco, io ho sempre sbagliato tutto. Centrifugati, quindi si mette a crudo. Sì, la maggior concentrazione di curcumina la assimiliamo con l'utilizzo a crudo, pepe nero e olio. Ecco, in e modo... poi a proposito di colore, dà anche un bel colore. Io devo dire che non l'aggiungo anche all'acqua della pasta. Certo. Perché così la pasta diventa di un bel colorino giallo, basta un filo d'olio, due foglie di basilico, due pomodorini tagliati e questo sarà il mio pranzo della domenica, che così quando vado a casa dopo la bufala in tavola ho fame e ho poco tempo e quindi mi preparerò questo piattino a prova. Poi chiaramente bisogna non ha un'azione miracolosa di per sé al momento, non diventiamo subito Biancaneve, non possiamo dire che è una medicina in sé nel momento in cui la utilizziamo, ma nel consumo abituale assieme ad altri alimenti ricchi di carotenoidi e di proprietà antiossidanti è sicuramente un ottimo sistema per arricchire e variare l'alimentazione e magari ridurre anche il sale nelle nostre pietanze, perché dà quel saporino in più che ci permette di ridurre il sodio nelle nostre ricette. E questo ci piace. Allora, senti come mangio, abbiamo imparato a utilizzare la curcuma o il curry, perché contiene curcumina, per aggiungerla nei nostri piatti, per regalare, come si dice sempre, gusto ma anche salute. E a proposito di come mangiamo, prima di chiudere vorrei parlarvi di marmellate, l'abbiamo anticipato, ma anche di sottaceti, passate di pomodoro, verdure sott'olio che prepariamo in casa. Sono un'abitudine e tradizione molto diffusa in Italia e sono veramente, questa è la loro stagione, sono molto gustose, però attenzione, richiedono il rispetto di alcune attenzioni. In linea con noi abbiamo il dottor Fabrizio Anniballi, responsabile del Centro Nazionale di riferimento per il botulismo. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi alla Bufala in Tavola. Buongiorno a lei Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dottore, alla Bufala in Tavola cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori rapidamente quali attenzioni devono seguire, precauzione, per evitare un pericolo molto serio che si nasconde nelle può nascondersi nelle conserve. Dottore. Allora, la prima cosa che poi è tra l'altro anche una questione di buonsenso è altissima qualità delle materie prime e il rispetto delle più banali misure di igiene in cucina, quindi pulizia e prodotti di altissima qualità. Queste sono le cose indispensabili per tutte le conserve. Poi, per quanto riguarda le varie tipologie di conserve che si possono fare a livello domestico, è necessario, o meglio, è idoneo fare soltanto conserve che possono essere acidificate, oppure, come nel caso delle marmellate e delle confetture, conserve che possono essere aggiunte di idonei quantitativi di zucchero, oppure conserve che possono essere fatte in salamoia, quindi con abbondante quantità di sale. Tutto ciò che non può essere fatto con queste modalità, come per esempio le conserve di carne, le conserve di pesce, dovrebbero essere evitate a livello domestico, perché non ci sono gli opportuni strumenti per garantire la sicurezza rispetto al botulismo. Quando lei dice conserve acidificate, per tradurre proprio in esempi di barattoli che noi troviamo nelle nostre dispense, magari preparate dalle nostre mamme e dalle nostre nonne, che cosa? Cioè, assolutamente, il sistema per acidificare, il sistema più semplice e efficace per acidificare è l'utilizzo dell'aceto, quindi i vegetali che sono chiaramente più facilmente preparabili con questo genere di ricette vanno sbollentati con acqua e aceto in parti uguali, aceto di vino importante, per qualche minuto, giusto così per cuocerli ma lasciandoli croccanti, dopodiché possono essere invasati o in aceto, quindi per fare il sottaceto, oppure in olio, come meglio si crede, insomma. Queste sono sicuramente delle conserve che non sono a rischio botulismo, sono sicure. Altrettanto importante è, dopo l'invasettamento e la chiusura del vaso, è quella importante fare un trattamento termico di pastorizzazione. Questo trattamento termico di pastorizzazione non uccide il botulino ma stabilizza la conserva, uccidendo tutti gli altri microrganismi che potrebbero alterare le condizioni interne del prodotto e permettere eventualmente al botulino di svilupparsi. per il botulino è l'aceto l'elemento che più rende tranquilli. Che gli dà del filo da torcere, lo ammazza, insomma. Non lo mette nelle condizioni di svilupparsi. Se non si può sviluppare, lui non produce la tossina e quindi il prodotto è sicuro. Quindi l'aceto è un po' per le conserve come l'aglio per le streghe, diciamola assolutamente così. Assolutamente sì. Allora, sono gli ultimi minuti della bufala in tavola. Dottor Anniballi, possiamo dire che agli ascoltatori che per preparare in tutta sicurezza la conserva, evitando brutte sorprese dopo il consumo, il Centro Nazionale di Riferimento per il Botulismo dell'Istituto Superiore di Sanità ha stilato delle linee guida. Noi metteremo il link sulla nostra pagina, ma io le chiederei di insegnarci a riconoscere dei segnali, dei campanelli d'allarme che ci avvertono che la conserva è andata male, diventa rischiosa per la nostra salute e per questo non va consumata. Estremamente importante prima del consumo di qualsiasi conserva fare un'attenta ispezione. Se al di fuori, se ci sono sversamenti di liquidi, se ci sono rigonfiamenti della capsula o del barattolo, se ci sono quando si aprono delle anomalie evidenti, come per esempio talvolta l'olio fuoriesce come se fosse dello champagne, se ci sono delle variazioni di colore, si apprezzano variazioni nella consistenza del prodotto. Tutti questi prodotti non vanno né mangiati ma nemmeno assaggiati, perché piccolissime quantità di materiale, insomma di alimenti contaminati possono potrebbero costarci il botulismo. Quindi vanno eliminati con il normale sistema con cui vengono eliminati l'umido o comunque i rifiuti organici. Dottore, la ringraziamo, le auguriamo una buona domenica. Io ringrazio la mia ospite della domenica, la dottoressa Flacchi, che tornerà prestissimo a trovarci. Dottoressa Flacchi, grazie a tutti voi, buona domenica. Mi porterà una conserva? Ma io faccio i surgelati per non rischiare. Buona domenica a tutti, noi ci sentiamo domani a mezzogiorno, Obiettivo Salute. Buona giornata, buona domenica da Nicoletta.